Aiu, fuori dai vincoli, fuori dai vincoli. Il sotto solo vibra, a tempo su una base, e se ne capa al fianco dalle prime cose. Mi ritrovo in mezzo, chi mi chiamava poser, io qua fuori il resto, nelle zone ombrose. Non mi metto in mostra per quattro mocciose, se vuoi stare fatto ti mandiamo in overdose. Rappresentiamo Sassari e gli siamo un misto tra signori e barbari. Non abbiamo idoli ma un mucchio di rispetto per le nostre origini. Ricorda che non vali nulla se imiti, se vuoi le canzonette tiriti, perché mandiamo messaggi numerosi come gli infiniti, troppo fastidiosi per chi ci vuole. Al buio senza sole, potere alle parole, ma non son capricci, non riesci a capirci. Ci vogliono mollicci, noi più massicci, buttiamo giù edifici, rime sparate a raffica e pratica come mitragliatrici. Fuoco sui nemici, fotti il mondo, ci stanno troppi attori, troppe attrici. A modo nostro, perché non abbiamo idoli, titoli, freddi come il ghiaccio su cui scivoli, brividi, qua si gela, questi sono i sintomi, no, fuori dai vincoli, no, fuori dai vincoli. Tutto a modo nostro, perché non abbiamo idoli, titoli, freddi come il ghiaccio su cui scivoli, brividi, qua si gela, questi sono i sintomi, ma noi, fuori dai vincoli, noi, fuori dai vincoli. Giro per la mia città, faccio sapere a chi non sa che Cristo non è mai passato qua. Faccio pezzi come quadri, dove rappresento soggetti strani e che i guardi e ladri. E il sottosuolo che ci tiene uniti, quando danneggiamo uditi, tutt'altro che puliti. I nostri marciapiedi dove marciano guerrieri, frate, qua si combatte, fanculo se non ci credi. Chiedi di me come pellicola red, faccio scandalo sul set quando tu sei in fase REM. Quando ci vedi dici, fotti con Saint Cassel, noi più Doberman di Vincent Cassel. Parli a sproposito, potresti fare il comico, queste arti tu ci ridi ma provochi il vomito. Sono sul serio, non lo faccio perché mi diverto, ma perché non ci sto più dentro e quindi invento pratiche che esprimono disgusto. I pezzi grossi vivono nel lusso e mi dicono cos'è che è giusto. Noi resteremo indipendenti, zero compiacimenti, a denti stretti, cazzo t'aspetti? Tutto a modo nostro, perché non abbiamo idoli, titoli, freddi come il ghiaccio su cui scivoli, brividi, qua si gela, questi sono i sintomi, ma noi, fuori dai vincoli, noi, fuori dai vincoli. A modo nostro, perché non abbiamo idoli, titoli, freddi come il ghiaccio su qui scivoli, brividi, qua si gela, questi sono i sintomi, no, fuori dai vincoli, no, fuori dai vincoli. Io resto fuori dal confine, che devi tu, non resta niente che coincide, chiedi alla mia tribù. Sassari down, se non hai capito ancora. Sassari down, Sassari down, Sassari down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down,